Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Non è stato un pesce d'aprile. Il primo aprile 2013 ha portato buone notizie per le tasche dei consumatori. Ben trovato al presidente dell'Adico, Carlo Garofolini. Ciao amico, un saluto a tutti. Allora, le notizie riguardano ogni tanto, ogni tre mesi, sappiamo che vengono aggiornate le tariffe di energia elettrica e gas. Questo era il secondo step del 2013 e quindi un calo, insomma, che forse ci si aspettava dopo i tanti aumenti del 2012, ma lo prendiamo per buono o no? Sì, prendiamolo per buono, Mirko, però dobbiamo anche cominciare a dire che dopo tre anni di rincari consecutivi, e parliamo di rincari trimestrali o quadrimestrali a seconda di quelli che erano gli adeguamenti che l'autorità per energia ogni volta faceva su quelle che erano le fluttuazioni del mercato e del costo del petrolio al barile, finalmente cominciamo dal 1 aprile a pagare un pochino meno gas del 4,2% e un pochino meno, quasi niente purtroppo, ma non aumenta, già una buona notizia, l'energia elettrica dell'1%, che in soldoni, da quello che ci fanno sapere, equivalrà a un risparmio per una famiglia media all'anno di circa 60 euro. Posso aggiungere un'altra cosa? Fare la diminuzione nel momento in cui stiamo per spegnere il riscaldamento, cioè tra pochi giorni verso metà aprile, saranno spenti a meno che le temperature non rimangano basse, però insomma sembra un po' la legge del mercato, si consumerà meno gas e quindi è anche giusto che lo si paghi un po' meno. Guarda amico, te l'avrei detto sulla seconda, se mi avessi fatto un'altra domanda, perché lo stavo pensando anch'io la stessa identica cosa, cioè un po' come il prezzo della benzina. Ogni volta che si annuncia un esodo, un ponte, qualcosa, aumentano i prezzi alla pompa. Quando terminano le vacanze si assestano sempre un pochino in meno di qualche centesimo. Questa cosa accade puntualmente anche sul gas, in particolar modo nel periodo invernale e nel periodo estivo, dove vediamo che all'inizio della stagione invernale aumenta e quando cominciamo ad andare verso la primavera e colore legale risparmiare diminuisce. Certamente un risparmio che non inciderà, perché se anche qualcuno ha calcolato che dobbiamo risparmiare circa 60 euro all'anno diviso 12 mesi, dobbiamo capire che si tratta di qualche tazzina di caffè al mese, parliamo di 4-5 euro al mese, per cui certamente non possiamo lusingare nessuno di dire che si tratta di una boccata di ossigeno. Eh sì, anche perché nei prossimi mesi, a meno che in queste ore il governo non decida diversamente, ma comunque ci sono degli spettri davanti che sono ulteriori aumenti con l'estate. Beh, innanzitutto ci ricordiamo che qualcuno è al governo con un 30% perché ha spedito una letterina a casa promettendo la restituzione dell'IMU, e questo qualcuno sicuramente ha i voti necessari al Senato per farsi valere, e presumo che gli italiani troppo facilmente questa cosa se la siano già dimenticata. Poi ricordiamoci che c'è lo spettro dell'aumento dell'IVA al 22% già dal 1 luglio, ma la cosa peggiore, ci sarà anche la TARES, che è la nuova tassa dei rifiuti, che attenzione è slittata da gennaio ad aprile, da aprile al 1 luglio, ma di fatto quando verrà messa a regime sarà retroattiva dal 1 gennaio 2013. Perché la TARES, come l'IMU l'anno scorso, si applica sull'anno solare, no? Siccome purtroppo i nostri cari politici e i nostri professori, adesso parliamo dei nostri 10 saggi, non fanno altro che andare sempre a colpire quelli che sono i beni primari, e come esempio la casa, dove sanno benissimo che gli italiani fondamentalmente non rinunciano ed è un bene al quale comunque ci impegniamo un po' tutta la vita in sacrificio sia nell'acquisto che nel mantenerla, pensano sempre bene a trovare il modo di applicare delle nuove tasse. Se l'anno scorso c'era l'IMU, e ci ricordiamo che l'IMU una volta doveva essere, in un'ottica di federalismo fiscale, una tassa che raggruppava l'ICI, l'IPEF comunale e la TIA, oggi invece abbiamo l'IMU, abbiamo la TARES, l'IPEF comunale che il governo Monti ha rivalutato, abbiamo la nuova tassa dei rifiuti che praticamente subirà un altro aumento e di circa 30 centesimi al metro quadro per una media di i 50-70 euro all'anno in più per garantire ai comuni quei servizi quali l'illuminazione, il rifacimento dei manti stradali, i marciapiedi, lo sfalcio dell'erba, eccetera, per effetto di mancanza dei trasferimenti che il governo effettua a discapito dei comuni. E quindi quei 60 euro circa per il gas e per la luce risparmiati di fatto sono già spesi. Sì, ma poi dobbiamo anche dire che se negli ultimi 2-3 anni la famosa tassa dei rifiuti, la TIA, è aumentata mediamente del circa il 12%, se prima si chiamava tassa dei rifiuti dopo un'importante sentenza europea aveva riconosciuto l'incostituzionalità dell'IVA 10%, aveva obbligato le società incaricate di asporto a restituirla. Adesso rincorrono in appello se vince le cause e hanno trasformato la dicitura tassa dei rifiuti in TIA, eliminando l'IVA ma quindi aumentando del 10%. Oggi quelli che sono i valori già che hanno raggiunto il massimo hanno pensato bene di cambiare il nome, individuando quella componente necessaria a favore dei comuni per effetto appunto, come dicevo, dei tagli dei trasferimenti, dove i comuni si impegneranno a garantire dei servizi, e però questi servizi già dovrebbero garantire per effetto dell'addizionale IRPEF che qualunque persona oggi paga e continua a pagare, di cui hanno già subito tutti i vari adeguamenti in questi ultimi anni. Insomma, è una vera e propria giungla. Riuscire a sfuggire, magari si sfugge da una parte, ma alla fine la si paga dall'altra. Tornando alla questione gas e luce, è vero che c'è stato questo abbassamento che riguarda, lo ricordiamo, solo la componente energia, che è solo una parte del prezzo che si paga in bolletta. Ti pare, vi pare come associazione che in questi anni su questi settori ci sia stata concorrenza, cioè che il mercato libero abbia aperto effettivamente la concorrenza, o come magari in altri settori si può parlare di un presunto cartello? Ti dirò di più, partiamo dal fatto che la concorrenza non esiste, si è più propensi a pensare sempre che ci siano dei cartelli, e partendo da una precisazione che secondo noi la concorrenza in Italia ha funzionato solo in un unico settore, in quello delle telecomunicazioni mobili. Tutto il resto abbiamo visto che dove c'è stata una liberalizzazione sostanzialmente non c'è stato mai nessun modo di risparmio a favore dei consumatori, addirittura obbligando, costringendo i consumatori alle fasce biorarie, alla fine abbiamo visto che addirittura non ci sono questi grandi risparmi, perché sostanzialmente paghi durante le fasce notturne o durante il weekend, ma paghi di più poi se consumi durante il giorno, quindi trovano sempre un modo di farti pagare di più, come un po' quando si va a fare il fornimento alla pompa, no? Una volta si pagava 50 lire in meno se facevo la benzina io, adesso invece paghi se fai il servizio, quindi ti hanno assorbito il risparmio ma paghi il servizio, quindi ti hanno fregato due volte. Oltretutto il consumatore deve tenere conto che quando decide di rivolgersi a un operatore che non fa parte del controllo del garante, esce dal libero mercato, per cui tutte quelle che sono le regolamentazioni dei costi che vengono determinati e imposti dall'autority, in questo caso non c'è più controllo e quindi è difficile pensare che si possa realmente risparmiare, ma più facilmente è comprensibile cadere vittima di qualche furbacchione. Noi speriamo che uno dei 10 saggi, che è proprio il presidente dell'Authority, garante per il mercato, insomma, metta dentro nelle riunioni di questi giorni un po' di intelligenza, di capacità, di vicinanza anche ai cittadini, visto che alla fine bisognerebbe, non dico pagare meno, ma pagare il giusto per i servizi che si hanno. Noi con questo ci salutiamo, Carlo, fra un paio di giorni un altro argomento insieme a voi, grazie. Grazie a te, Mirko, un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.